ciao Gianni, ciao Claudio. E a tutti quelli che sono all'ascolto, un saluto. 27075, strada provinciale 25, numero 47, Gavino, Porto Torres. Buonasera a tutti. Aspetta un secondo solo, Gavino, tu vedi, hai frainteso anche un'altra cosa. Il mio figliuccio, c'è qua Gianni testimone, ho detto, se io con la portante non riesco a sentire mio figliuccio, io lo chiamo al telefono. Non è frainteso che lo chiamo per te, ma stiamo scherzando. Allora essere grandissimo coglione, io chiamo una persona ad aiutarmi, non esiste. Ma nessuno, io mi conosco me stesso, non ho bisogno di nessuno. Non vado a chiamare persone per te, assolutamente, ho detto soltanto queste testuali parole. Io se non sento la persona che parla baracchino, potevo parlare anche a te, ma sommi, se non sento Gavino, giustamente, che è un nome tra portante, chiudo il baracchino e io chiamo Gavino, al telefono non mi metto una portante, è già successo tempo fa con Claudio e con Gianni, tant'è vero che ho spento il baracchino, ho chiamato al telefono Gianni e Claudio, così ho detto, non, perché mi devo incazzare per il baracchino, invece ci sono cascato come un fesso stasera, vabbè pazienza, è andata così. La prossima volta non succederà più, Gavino, non preoccuparti. Pace bene a tutti. Ok, ma voi ci sei ancora? Perché Gavino è fuori Sassari, ecco perché non lo senti. Io purtroppo ho detto queste testuali parole, io chiamo mio figliuccio, giustamente se non sento al baracchino perché c'è l'antenino, io lo telefono, al telefono mi metto la portante. Invece Gavino ha capito il contrario, che io chiamavo a mio figliuccio per lui. No. Sbagliato di grosso, io non chiamo nessuno, assolutamente. La mia cosa era solo questo, che chiudevo il baracchino e telefonavo a mio figliuccio per dirmi quello che doveva dirmi perché non lo sentivo. Basta. Mi è venuta una pietra sopra, ma basta. Io sono lì, diciamo, tranquillo, e voglio essere tranquillo, dai. Ok, avanti già. E lo sai cosa c'è? Che praticamente quando uno parla al baracchino, dietro chi parla al baracchino ci possono essere altre persone e tu entri con la tua voce nelle altre case. È quello che succede se magari uno dice le parolacce, magari non può sapere chi ci sia dietro, chi possa sentire, eccetera. Vabbè, dai, comunque l'interessante è che vi siete... Scusa, mi sono telefonato. Ok, dai, Manuè. Sì, ho toccato il baracchino, ma l'ho la scossa, non ti mai, c'è tutta la massa qua. Ho sentito un piccolo friggitorio, non mi dire, ho messo una massa volante e l'ho messo sul baracchino. Ma che non ce n'è più panettone a quest'ora. Poi si risiede a febbraio un panettone. E allora è scaduto. Ma poi non rimane il panettone, insomma. E ci vedere che cosa è. 7:15. Luglia. E adesso mi aiuto mezzo bene Monica. Cosa? Tira su, ma è perché è giusto, ma. Se so che vanno su di che casino al baracchino, spengo tutto, non entro più, mi vendo tutto e buonanotte. Mi vendo quel poca roba che mi è rimasta, Ora regalo d'ora. E ho già fatto. Vabbè, non la fregno. Andare, per me può rimanere spento, non c'è problema, capito? Ma giù sa come la pare sua io. A me mi dispiace che Gavino si è preso a male comunque. O per ciò che ho detto, giustamente, mi dice che un anziano non esiste proprio. Ho sbagliato, basta. È umano sbagliare. Ho chiesto scusa, ma giustamente non sbaglierò mai più, perché se sbaglio di nuovo allora la scusa non esiste più, capito? Quindi sono anche diciamo abbastanza vaccinato per le cose. È umano sbagliare. Basta. Chiudiamo il discorso, non me ne frega più niente, è successo, è meglio se è andata a fine così e sono più contento e tranquillo, dai. C'è più nessuno qua, vabbè, c'è qualcuno in ascolto, io sono in ascolto sul 10, quando è finito Gianni, chiama, ok, se non ti rispondo Gianni mi chiama il telefono, ok, perché adesso è acceso, poi non so se lo spengo. Carlo, sei tu? Avanti. Ciao Carlo. Chi sei, Gavino? No, Tonino. Tonino? zappa. Che cavolo, non ti stavo riconoscendo, c'ho il QRM alle stelle. Ti arriva basso? Adesso come ti arriva? Ecco, adesso va meglio. Vai, vai, adesso va bene. Forse eri un po' compresso, non lo so. No, ho messo qualche batte più delle baracchine e basta. Ecco, adesso chiara la voce, la tua. Ma c'è anche Gianni, bene al telefono, in quel X. Ah, ecco, infatti ho detto... Niente, ho detto adesso ho acceso, perché prima ero occupato facendo mille cose, e niente, a fare quattro chiacchiere, sino all'ora di cena, sino alle 8. E io, prima delle 8, perché devo preparare, perché viene la micca, e oggi devo fare gli spaghetti ai frutti di mare. Buoni, buoni. Noi, mia moglie ha preparato polpette col sugo, perché aveva preso carne macinata fresca e poi ha fatto un po' di ragù. Domani ha detto che fa le lasagne al forno, no? E stanotte ci mangiamo un po' di polpette con magari un contorno, un formaggio. Ma io me la faccio domenica, la passo al forno, perché ho fatto la favata da poco, poi ho fatto la cecciata, mi sono fatto anche la crema, buona. E niente, c'è gli spaghetti e frutta di mare, poi domenica mi faccio con calma le lasagne, perché ne ho una voglia. Però c'è un po' di lavoro, quindi fare ragù, eccetera, eccetera, capito? E allora aspettiamo, dai, che domani sono impegnato, non è un carissimo XGB, fare un lavoretto idrico. Quindi, vabbè. Io stesso ho qualche lavoro da farmi, mi devo spostare praticamente la caldaietta da una parete all'altra. Voglio liberare una parete perché così me la faccio coinventare, capito? E la metto proprio sulla lavatrice, pure nel terrazzino. È sempre nel terrazzino, però devo solo cambiargli la parete. C'ho il contattore del gas vicino e che devo trovare un flessibile per il gas, però di quelli rigidi, capito? Un po' più lungo, così gli faccio il collegamento diretto dall'uscita, diciamo, del contattore, gli faccio la mandata del gas e poi acqua calda e acqua fredda. Ho capito bene, la caldaietta sopra la lavatrice. Esatto, sopra come muro, diciamo, in maniera tale che non mi ingombra due pareti, una la voglio liberare. Adesso ho capito, non stavo pensando, la caldaia è appoggiata sopra la lavatrice. No, appesa al muro. Che cazzo. Vabbè. Niente, comunque sta facendo un po' di freddo per questo periodo. Stamattina eravamo a 4 gradi, fate conto. E io quando sono uscito stamattina alle 4:30, praticamente c'erano un grado, camminando sulla strada -1 lì verso Tutubella, quella zona è micidiale, c'era un freddo, e poi all'aeroporto 0 gradi, sino alle 6:30, poi è iniziato a salire, ma non è salita più di 4-5 gradi. Cavolo, ma quella mattina che ho tornato il buongiorno io, che erano le 6 o qualcosa, non mi ricordo bene comunque, e tu mi hai salutato, io già sveglio, non ti ho voluto disturbare oltre a dire come mai sei già sveglio, ma stavi rientrando al lavoro, era lavoro o era quella casa tua e ti ho svegliato? No, io ero, quando, se ti ho risposto vuol dire che ero sveglio ed era lavoro, magari avevo il turno sicuramente quella mattina che ero al varco doganale, sono solo, capito, non gabbiotto, per cui lì puoi usare il cellulare. Io molte volte non rispondo perché i messaggi li vedo tutti insieme, a volte ho 30-40 messaggi, perché al lavoro non possiamo usare davanti al pubblico il telefonino nostro personale, capito? Quindi io lo lascio nell'armadietto e a volte non li sento. Per le urgenze, capito, se magari mi deve chiamare mia moglie, già mi chiama, c'è il numero del telefono di servizio, mi chiama là e poi io la richiamo dal mio, capito? Però invece quando ho i servizi esterni, allora lì a volte non sai come passare il tempo e quindi puoi usarlo perché non hai il pubblico davanti e sei da solo, capito? In videosorveglianza oppure al varco carraio o al controllo bagaglio da Silva, capito? Hai momenti morti che puoi usarlo. Insomma, insomma, infatti non ho continuato, ma spero che non ti ho disturbato quella mattina. No, io la mattina tu mi mandi il buongiorno, ma a volte per me è quasi buonanotte, o perché faccio il turno di notte o perché magari esco molto presto. Noi il servizio lo iniziamo alle 5, quindi io alle 4 e mezza, 4 e 25 sto partendo, e mi metto la sveglia alle 4, mi lavo, mi vesto, esco in 20 minuti, e devo essere giù a Predanieda. Quando io sono in mezza a Predanieda arrivo alle 5 meno 10, 20 minuti ci impiego. Tu pensa che ogni mattina i messaggi le mando circa 30 persone, tra parenti e amici, quindi per me è anche, diciamo, un messaggio, è come che uno si ricorda che ha degli amici, che non se li dimentica, capito? Vuol dire quello e basta. Non è un tipo che dice, ah, sì, quando lo sento lo chiamo, invece gli do il buongiorno, la buonanotte, giustamente perché ci tengo gli amici. E infatti io quando lo vedo in diretta, nel senso che posso usare il telefono subito, ti rispondo. Molte volte non rispondo perché magari è passato, magari me l'hai mandato la mattina, io lo visualizzo alle 2 il pomeriggio quando sto rientrando a casa, oppure la sera. Non ti preoccupare, addirittura c'è una persona, voglio fare i numeri, non è cibifero. Addirittura mi manda il buongiorno alle 3 del pomeriggio, che capita. E quindi niente, poi verso le 8 e mezzo 9 mi arriva la raffica tutti i messaggi. Giustamente non sono come me che mi alzo molto presto la mattina, capito? Mi faccio prima le faccende di casa, da quando poi allora mando i messaggi. Quando mi guardo un po' di TV e poi mi lavo, mi preparo, forse luci riesco, tutto qua. Andà bene, Gianni, è finito questo telefono? Ancora telefono? Ehi, lascialo al telefono, magari sta. Avrei voluto beccare Giulio a chiedergli un'informazione tecnica, che lui ha fatto il falegname per tanti anni, ma già lo becco di mattina a Giulio. Forse sia che l'ascolto qua, bimbo. Giulio, ci sei in ascolto? Non c'è, perché volevo sapere, lui che ha fatto il falegname, ha costruito mobili, ne ha aggiustato, se conosce qualche prodotto che sbianca un mobile che si è ingiallito, non un mobile laccato, ma un mobile in legno, insomma, bianco però. Adesso ci sono questi prodotti qua. Dovrebbe saperlo, perché lui fa legname, quindi giustamente dovrebbe saperlo. Se non tal caso uno se li serviva subito da bricco, come si formano di quei ragazzi che sono lì, dove sono i vernici, sverniciatori, eccetera, eccetera, i prodotti sapranno cosa indicarti. Mi hai dato un'idea, magari se provo da bricco, perché da poco lì ho preso un prodotto che lo metti sui pavimenti, come stanno lavorando qua nei terrazzini, tutto pieno di cemento, no? Anche se poi lo togli rimane tipo una macchia, e invece con questo prodotto lo metti, l'ho preso lì da Bricoman, e ti pulisce tutto, proprio corrode. Infatti c'è scritto di usare un pennello quando lo metti, e poi risciacqui con acqua. Io vedo la pubblicità su Facebook che con pennello c'è l'acqua tipo sporca, tipo nera, e con pennello, con questo tipo crema da bagna, gira dentro il bicchiere e diventa bianco bianco trasparente. Però se dovessi trovare qualche prodotto, tipo che lo passi con una spugnetta, no, dove è ingiallito e ti sbianca, perché io ho un mobile, un armadio praticamente di camera di mio figlio, no, che è bianco, e diciamo tutti le ante, i cassetti sono bianchi, le parti che invece sono le bordature interne si sono tutte ingiallite. Io noto per esempio anche il condizionatore che avevo nell'altra casa, diventava giallo, io non fumo, qui sono sempre bianchi, grazie a Dio, non ho capito perché diventa giallo. Allora io ho il microonde che è diventato, dove c'è il coperchio, dove chiudi, giallino, il resto è tutto bianco, io ripeto non fumo, come è diventato così giallo? È la plastica che lo fa col tempo. Può essere anche il calore, capito, il calore ingiallisce molto, soprattutto i prodotti plastici. Il legno invece, sto pensando che sia più il sole, l'azione della luce col tempo che lo fa ingiallire. Il sole sì, distrugge tutto, anche delle macchine per esempio le notiamo che si screpano, anche diciamo il trasparente e diventa tipo una specie pellicola, un casino, la vernice lo stesso se ne va in malora. certo punto non può avere tutti i garage, oppure coprirla con un telone, oppure deve, se deve uscire spesso deve togliere il telone, no, un macello. Così, vabbè, prima o poi. No, come hai detto prima, poi a fare i lavori fuori c'ho quella caldaietta da spostare, però è un freddo in questi giorni, ti cancareggi anche le mani fuori lavorando. Aspetto appena migliora che sale la temperatura un pochettino, la metto a posto con la caldaietta. Allora, se una bella giornata di sole, ok. Se invece è una giornata così, diciamo, nuvolosa, non ti conviene questo periodo, perché tutta la stessa settimana, l'ha detto, fa un bel di freddo, freddo siberiano, quindi bisogna stare attenti. Infatti, sì, no, lo rinvio a quando, insomma, farà tempo migliore, non adesso, in questi giorni non fa. Se stai fuori mezz'ora, ne prendi un malanno, e non ho voglia di starmene poi con la febbre, con il raffreddore, già migliorerà il tempo, aspetto 10 giorni, se c'è qualche bella giornata di sole, perché lì ci sbatte anche il sole, mi metto il dopo pranzo e faccio lo spostamento, poi i collegamenti in tutta la sera già ci riesco. Ho visto le giornate si stanno anche allungando, per cui a marzo cambia anche l'orario, a fine marzo, e dovremmo avere più ore il pomeriggio. Hai notato che prima alle 5 era già buio, adesso invece sì, c'è ancora luce po'. E vabbè, meglio così. Sì, comunque guarda, c'è l'influenza in giro, occhio, perché c'è Franco California che è influenzato, Natalino è influenzato, cioè Franco ha contagiato Natalino. Sì, lo so, anche oggi un mio collega ha chiamato, mal di gola, febbre a casa, un altro è a casa da 2 giorni, già siamo pochi e ci sono anche le malattie, dobbiamo fare i salti mortali. Capo, bisogna stare attenti, coprirsi bene. Io ho anche la cuffietta di lana, mi metto in testa quando esco, non frega niente se sono male, ma io penso al gabù mio, quel freddo a me mi fa zenare, già che non ho tutti questi capelli, vabbè, comunque non esco con testa lucida, però ripeto, a me mi fa comodo e me la metto in questo periodo, mamma mia. Io lo stesso uso il cappello, solitamente non ne uso, però quando fa freddo già ti ripara la testa. Io ho capelli, me ne sono rimasti poco e niente, per cui se è un riparo per la tettoia è meglio. Giustamente è così. Andrà bene. Gianni, sei rientrato? Gianni, quando entra al telefono ci sta 3 ore. Poi dice a me, quando ti chiama te quella lì ci stai 3 ore. E lui è uno di quelli, lo stesso. Quando mi chiamava a me mezz'ora, 3/4 ora, un'ora, sto lasciando un po' di spazio a vedere se entra qualcuno. Evidentemente telefonata lunga. L'ho sentito Gianni, stamattina eravamo alla radio così, ma non siamo rimasti molto, sennò una mezz'oretta là. Chiacchierando eccetera, poi si è fatto tardi, io sono uscito prima stamattina perché mi ho fatto un permesso ferie, perché ne ho tante di ferie, quando è possibile mi prendo i permessi, ancora abbiamo pochi voli, per cui stare lì buttato, allora prendo e me ne vado. Un attimo che sono al telefono. E vai, tanto sono in ascolto qua, anch'io sto iniziando a preparare. C'è qualcuno? Centrale canale 10. Ciao Roberto. Ciao Gavino, ben sentito. Allora. Buonasera Roberto, ben sentito anche tu. Ti ascolto bene, 9+10, lo superi anche. Molto, molto buona modulazione, bella corposa. Sono con 4,5 e dai, come ecco originale. No, molto molto presente. Come ascolti invece, questo è il 60 col 44. Vabbè, cosa ti devo dire? Più che ottimo, è eccellente. Beh, che si dice di nuovo, adesso un po' che non ti sentivo. Mi stai preparando qualcosa, perché adesso c'è la, diciamo, la tranche dei carri di carnevale, quindi sto preparando un impianto per due impianti per i carri di carnevale. Adesso vediamo un pochino, c'è un po' di, diciamo, di roba sul fuoco, quindi vediamo un po' com'è. Ma il carnevale di che posto? Io vado molto sullo Lizzanese, quindi non qua. Siamanna, Tramazza, Sola Russa, Marrubio, quindi roba un po'. Diciamo che roba un po' impegnativa. Ma tu parli di amplificazione per i carri o statica fissa? No, per i carri. Io faccio roba in questo periodo per i carri. Che potenza usate normalmente? Come si dirà che in potenza elevate non si può definire robe. Diciamo che abbiamo 20 kW di assorbimento, solo dell'audio. Sicuro, allora è davvero, perché io qualche anno fa ero andato a Usilo, io non ho mai sentito un carro con un rumore, a parte era assordante, mi ha spaccato il timpani, sono andato dietro, la strada dietro proprio, e c'erano 15 kW, 15.000 watt in questo carro, era una cosa spaventosa, quanto era potente questa roba. Infatti, ma cosa me ne fate di questa roba? Coprivano i carri che c'avevano, questo era dietro, e c'erano dei carri davanti, io ero vicino ai carri davanti, e questo era due carri dietro, e coprivano quelli lì, era una cosa... La paura, ho detto, ma cosa serve fare una cosa del genere, no? E quelli tutti dietro, i figuranti, dietro queste casse, la paura, un rumore assordante. Sì, tu pensa che io... Guarda, in assorbimento solo in finali ho 22 kW. 22 kW. Ma non finali separati, perché per i carri uso i Meyer. Ho un impianto della Meyer Sound. Sono 22 kW perché sono 33 in PP, diciamo in accensione, dopo lo stabilizza sono 22. Sì, ma quello che voglio dire, a cosa serve una cosa del genere? Non è che sei per dire devi fare 200 metri di distanza, la gente è tutta lì vicino, è un rumore talmente assordante, non so cosa possa servire. Ma, sinceramente non lo so neanche io, però richiedono queste potenze. Ormai i carri non si basano più sulla figura, diciamo, della progettazione del puffato, del tema che si usa in carnevale, però prima organizzano lo spazio per l'impianto, poi in base all'impianto fanno il carro. Ma per me va bene, io li porto 8 MLS4, 4 700 HP della Meyer. Guardali su internet se li trovi. 8 MLS4 Meyer Sound e 4 700 HP sub 4 sub dopo 18. Figurati. No, hai detto bene, il problema adesso fanno il quadro per fare il carro, per fare il rumore, non viceversa, prima si metteva il carro, all'inizio magari erano anche senza musica, parliamo ai tempi dei carnevali di Viareggio, adesso viceversa, una cosa delicata, non so come fai tu a gestire, no, tu, non dico te in particolare, dico questi che mettono a disposizione gli impianti, cioè mettono un gruppo elettrogeno con tutti gli smalti e bisogna il filtraggio di coso, di residui di interferenze che può avere questo impianto, di generatore di corrente, non si danneggiano questi amplificatori, questi finali? No, assolutamente, i gruppi loro, allora chi porta impianti così ha dei gruppi stabilizzati, per esempio il gruppo che seguo io ogni anno, perché poi loro si trovano bene, comprano proprio il gruppo elettrogeno, per esempio il gruppo che seguo io hanno base 40 kW, col motore, hanno motore della Perkins, al motore Perkins generatore MASE ed è un 40 kW, anzi bugia è un 44 kW, doppia 63 ampere e mi sembra che sia un motore biturbo anche. Mi sembra che sia anche un motore biturbo, consuma 20 litri di gasolio all'ora. È una bella bestia di cosa. Ti volevo dire, immagino che sei tu, perché dopo le coincidenze, ho visto su Marketplace delle apparecchiature, tra cui molte interessanti, molte già vendute, tra cui un TS450, non dico il cognome, però sicuramente sei tu, mi immagino che sei tu, confermi? No, 450 no, 450 no, non l'ho messo in vendita, ho messo il CR7000. Però 450 no, assolutamente no. No, scusa, ho detto una grande fesseria. Cioè 450, dicevo 7000, come te lo vuoi vendere? Non lo so, perché ho un altro apparecchio che lo trovo, che mi sto trovando meglio, quindi non lo sto usando, capito Robert? Quindi per non usarlo preferisco darlo. Sì, però lo voglio dare, ma non lo voglio dare, però se lo do oppure lo scambio con qualcosa, lo stesso diciamo di radio. Guarda, io dico una cosa, quella è una radio che ha fatto la storia, all'epoca costava diversi milioni, naturalmente se parliamo di una radio efficiente, come mi immagino che sia, per andare di meglio devi spendere molto di più, per i miei apparati, io lo cambierei solo per andare di meglio, però per avere meglio di quello devi spendere molto, ma molto di più, ma non che non vai con sistemi, col computer, con questi sistemi di cosa, digitali e basta, però stiamo parlando di due cose diverse. Io 7000 ce l'ho e me lo tengo, c'ho un apparecchio di gran lunga superiore per altre cose, però un 030, però un apparecchio professionale, stiamo parlando di cose completamente diverse, però quello lì nel suo segmento diciamo di apparecchi era il top. Per avere qualcosa di meglio devi andare con apparecchi con 20 anni di differenza, per avere meglio di quello, e dico tutto qua, per cui se c'hai intenzione di prendere qualcosa di meglio va benissimo, però per andare a prendere qualcosa simile io ti consiglio quello è un trattore, quell'apparecchio lì è un trattore. Sì, no, questa radio è perfetta perché questa toglie i morti da sottoterra, voglia toglie questa radio. No, occasione di un Yaris, un 2000, mi sembra. L'effetti 2000 stiamo parlando? Sì. No, grande, vabbè, stiamo parlando di due cose diverse, non hanno niente a che vedere uno con l'altro. Però a livello di ricevitori, su quell'ordine di prezzo che puoi pagare quello lì, il valore suo, non trovi niente di meglio, te lo garantisco perché mi sono molto ben informato, ne ho anche visto diversi, con quell'ordine di prezzo che costa il CR7000 non trovi di meglio. No, vabbè, qualità prezzo è anche sottovalutato, considera questo qua è stato revisionato anche, questo qua è stato fatto da Bianconi, quindi una radio a posto, prima di spedirla, prima di mandarmela un mese prima è stata revisionata da Bianconi, quindi non ha problemi, è perfetta, cioè questa radio è una pietra, capito? Quando tu la senti in ricezione è una pietra, proprio è zitto, non batte ciglio. No, guarda, io ne avevo un altro prima, un CR7000, l'avevo preso da questo laboratorio, non mi ricordo di dove era, ed erano quelli che avevano ritirato dagli impianti degli aeroporti inglesi, ne aveva ritirato una cinquantina questo, infatti avevano gli alimentatori rinforzati per uso 24 ore su 24, avevano cambiato le mammopoline piccoline, le avevano messe diverse in alluminio, diciamo l'avevano migliorato per l'uso continuativo, l'ho tenuto per diversi anni, poi a un certo momento ha iniziato a diventare un po' sordo, l'ho spedito da Bianconi, mi ha detto guarda c'è un problemino qua, bisogna trovare una scheda perché questi componenti non si trovano più eccetera, l'ha tenuto un pochettino dopo qualche giorno mi ha detto guarda io sto sempre cercando però è ancora niente, e poi dopo qualche giorno mi ha fatto guarda se senti qualcosa ci sentiamo, mi chiama dopo qualche settimana, guarda mi è entrato un ICF 7000 dentro la scatola, infatti il mio era quella con la scatola, nuovo, fiammante, ti interessa? Mi ha fatto il prezzo, gli ho fatto me lo ritiri il mio, e cosa ti ritiri? Mi ha fatto un prezzo diciamo fatto per prendere la pezza di ricambio, me l'ha dato, ricontrollato, perché lui quando prima di consegnare li riallinea, verifica tutto, perfetto, l'ho acquistato e sta andando, che è un treno, un signore dice, poi la bellezza di questo apparecchio è la facilità d'uso, cioè uno anche che non è pratico, entra subito, regoli, fai, mentre con questi nuovi ci sono menu, sottomenu, ed è un po' problematico per dire se uno, non sono molto intuitivi, quello c'ha di bello che è molto intuitivo, poi ascolta tutto, è un apparecchio da 25 a 2000, ascolta tutto quello che può ascoltare, c'ha dei filtri, eccetera, eccetera. Di nuovo a te, Gabi. Sì, no, io mi trovo bene, non posso dire il contrario, perché è un apparecchio abbastanza, è completo, e come hai detto tu è molto, molto facile da usare. Guarda, mi ha spedito, vabbè, non ci siamo più sentiti noi, mi è arrivato anche l'IC737, se vuoi te lo faccio sentire. Guarda, attacco un attimino, se aspetti 20 secondi lo attacco. Sono qua, quando vuoi. Ok. Nel frattempo, se qualcuno vuole entrare e partecipare alla discussione, sul canale 10, corrispondente al 27075 avanti, e sarà un piacere ascoltarlo. Sei tu Gavi, guardati che vuole entrare qua su 10. Ma sembra una laterale forza Gavi. Sì, è vero, scusa. È perché uso solo l'ascolto questo qua. Allora, l'ondulazione è molto chiara, c'è leggermente un residuo di alternata e se riesci a alzare appena appena il livello stai andando alla grande. Allora, alternata. Guarda, io questa qua devo tenerla così perché l'ho regolata a 20 watt di portata bianca e 25 modulati e l'alimentazione è positivo, quindi di cui non la posso alzare. No, forse ero basso io di volume, ho toccato il volume della radio. E non è l'alternata, è una ventola probabilmente, non è alternata. No, ventola accese non è una. Ventola accese sono in cilindri. Guarda, faccio uno spettro dell'ambiente. Forse la televisione che c'è cucina. Forse c'è qualcosa di lì della stanza, qualche rumorino, dai. Questo passaggio è un po' meno, è andata meglio. Sì. No, è molto zitta come radio, eh. Ti ascolto, guarda, in maniera trepidosa. No, questa devo dire rispetto all'altra è più salottiera, più naturale come modulazione, l'altra la vedo un po' più ricca di tonalità basse, diciamo più da combattimento, diciamo un pochettino più piena, però questa forse è piacevole, mi piace di più questa devo dire. Beh, positivo. Vuoi passare in banda laterale, andiamo LSB? Però prendo un'altra radio, lo faccio con l'altra, con questa. Cambio radio, un secondo è il tempo di andare sull'altra radio. Vai. USB o LSB? LSB. Allora, Vincenza. Però adesso sto usando la Grazioli, sì, adesso con questo collegamento con te. No, ti ascolto perfettamente, buono, ottimo anche il segnale, io posso anche commutare l'antenna, guarda, ti metto, questa è la Mantova, adesso ti commuto l'antenna, la verticale è quella diciamo molto in banda, sicuramente il segnale si abbassa tantissimo, non so se sono accordato, comunque ti commuto l'antenna, guarda un po'. Questa è la verticale, vabbè c'ho il rosso alfa adesso, veramente si è abbassato tantissimo, mi ascolti ancora? Sì, positivo, ti ascolto con un segnale di 8, una radio di 5, la radio è comprensibilissima, ti trovo fuori egregiamente, il segnale è abbassato, Adesso vediamo un po' che io provo a collegarti con l'antenna, diciamo con la filare a cui invertita. Aspetta, adesso sono in accordo, guarda un po' se è salito il segnale. È un passaggio, Roberto. Allora, 27.075, sono perfetto, risonanza l'antenna, perfettamente. Allora, Roberto, con l'amplificatore attaccato ne arrivi segnale 9.5, senza amplificatore è un segnale di 8. 5 più 20. Poi se c'è filare possiamo fare anche la prova con la filare. Sì, certo, adesso ti collego la filare. La filare. Non so se mi ascolti, questa è la filare mia. Non so se mi stai ascoltando, Gavino, questo non è proprio una filare, siamo un sistema 5 bande, un'antenna tipo una cubica però montata in cosa, in orizzontale. Vediamo un po' se mi ascolti. Ti ascolto basso, basso, basso, Gavino. Ok, sono ritornato con la Mantova. Ci sei? Attenzione, canale 10, avanti Gavino. Sì, sì, sì, sono di nuovo con la Grazioli. 27.0.4.94 operatore Gavino Mike Buonasera. Prova un po' per andare in FM tu. Positivo. Ci sei Gavino? Roberto. Non so se sto uscendo, ci sono? Positivo, fondo scala con l'attenuatore inserito. Capisco perché c'è il segnalone a manetta qua, c'è qualcuno vicino, guarda come mi ascolti. Ti ascolto benissimo, e hai un... sei a fondo scala qua e hai anche l'attenuatore inserito, tolgo l'amplificatore dell'antenna, vediamo un po'. Sì, anche io c'avevo il preamplificatore, vabbè, 9 più 60, ti sto attenuando di 20 dB addirittura perché arrivi prima la bomba. Sì, sì, anche io, guarda, guarda, adesso sono lo stesso 20 watt. Vabbè, questo sta spingendo in questo caso. Comunque la modulazione da paura, la tua è spettacolare, in FM funziona. Cos'è il 737? Bene. Sì, IC737, sempre microfono palmare originale. Spettacolare, una bomba. Ok, proviamo un secondino in AM, vediamo come mi ascolti. Ok, perfetto. AM sempre 27.075, la potenza è un po' molto più bassa di prima. Positivo, senti un pochino com'è. Io sempre con gli stessi watt, non li ho modificati dalla FM alla M, sempre 20 watt. Più o meno ce l'ho anch'io, ne ho 25 in questo caso, nell'altro caso ero un po' di più, dai, stavo dando la piena potenza del coso, però c'è una bella modulazione in FM con la radio, è una bomba spettacolare, in AM va benissimo, ma in FM è una telefonata proprio bellissima. Si prova adesso USB anziché LSB, Uniforce Rabra. USB 27075, vediamo un po' come mi ascolti. Devo dire, sei un po' più basso di segnale, hai abbassato tu? Sì, sì, un po' l'ho abbassato, Guarda, lo porto come ero in LSB. Allora, così ero in LSB. Forse c'è qualche altro. Avanti che vuole entrare? C'è questo Volvi più, non so chi sia. Aspetta, adesso prendo l'altra radio, dai, ritorniamo in AM sull'altra radio, Gavi. Ok, attacco il tempo, beh. Avanti che vuole entrare qua sul canale 10 e con questo mi so orientare meglio per il segnale perché non c'ha lo smitter digitale, per cui non riesco a identificare i segnali, mentre con questo adago più o meno li conosco se sono le persone che ho già ascoltato almeno recentemente. E di nuovo a te Gavino, però è molto più rumorosa devo dire questa radio rispetto al 2000, non c'è paragone. Avanti che vuole entrare qua sul canale 10. Oi Robè, buonasera. Eccoci qua, caro, mi stavo facendo delle prove con il carissimo Gavino. Finalmente un po' di tranquillità, molte volte c'è un po' di confusione, eravamo tranquilli, tranquilli. Ok, vai tu Carlo, e così vediamo se Gavino è rientrato, ha cambiato di nuovo radio. Sì, infatti prima ho fatto chiamata, però eravate in banda laterale forse, e ho detto che magari non mi hanno ascoltato, quindi poi mi ero spostato, adesso visto che siete tornati in AM. Niente, perché io non ho la banda laterale che mi si è rotta la radio e per cui solo AM FM. Allora tu col bip, infatti sentivo qualcuno col bip quando sta facendo le prove, però non riuscivo a capire chi era. Ok, vediamo se Gavino è rientrato, così te lo rilancio per i saluti. Sì, sì, sì, sono entrato, scusate il ritardo, ma io ancora ho un commutatore qua, non lo devo prendere perché io il commutatore ce l'ho solo dalla Alinco al 737, parlate la della VHF. Buonasera Carlo, buonasera Carlo, ben sentito, buon dopo cena in compagnia di Roberto Gavino sul 27075. Avanti Carlo, buonasera. Ciao Gavino, anche tu ci sei quindi stanotte a fare un po' di compagnia. Io per caso mi ho acceso prima e sentivo lo sblatterio, ma ho detto forse stanno facendo prove, ho fatto due colpi, ho fatto una chiamata e però poi ho capito che eravate in banda laterale e quindi ho detto forse stanno facendo prove, non lo so, non riuscivo a capire chi fosse, però perché ovviamente non avendo la banda laterale non si capisce granché della parlata. Ho visto segnali forti però e quindi ho detto già deve essere qualcuno di Sassari. Riprendi pure Roberto. Ciao, vabbè, siamo abbastanza vicini noi, tu mi arrivi 9:50, figurati in banda laterale cosa dovevo arrivare io, che stavo spingendo un pochettino. Io raramente, forse pochissime volte l'ho fatto, sollevare un pochettino, quello lì ti dà piena potenza, il 2000 perché lo uso in altre bande, dai. Comunque questo darà una decina in questo momento, ne tira, ma con i picchi vabbè è diverso, però la portante fissa siamo una decina arrivata. L'importante è non dar fastidio a nessuno, dai, poi possono essere 10, 15 o 3, l'importante è non dar disturbo a nessuno, spero che non ne arrechi a nessuno, almeno immagino, visto che l'impianto è fatto come si suol dire a regola d'arte. Vai Gavino. Sì. No, stavo provando giusto Carlo, quella radio che ti stavo dicendo l'altro giorno che mi è arrivato quell'ICOM, stavamo provando un pochino la, diciamo, la trasmissione e la ricezione, dai risultati che mi ha dato Roberto, ha fatto un buon lavoro nella riparazione, ha fatto un buon lavoro nella riparazione. Roberto, considera che questa radio qua non ha i finali originali, quindi non è nella sua finali compatibili, però non ha quelli originali perché non si trovano più. Ha tutti i servizi, però non c'ha più i Mitsubishi. Avanti Carlo. Sì, conosco bene quel problema perché io avevo messo in riparazione il Galaxy Saturn, quello che poi a Gianni, che era rotto, e a Sassari l'aveva portato per farglielo mettere a posto e praticamente gliel'hanno restituito che non era a posto, proprio perché non avevano messo i finali originali della Mitsubishi. Io li ho trovati, ma li ho ordinati da eBay americano e mi sono arrivati in 10 giorni, poi li ho dati a chi mi ha riparato la radio e praticamente ha sostituito, ha messo i finali originali e la radio ha ripreso a funzionare normalmente. Quella accetta solo i finali, diciamo, di potenza, quelli originali. Li devi ordinare dai mercati esteri e magari trovi qualcosa. In Italia è difficile trovare, soprattutto in questo periodo, dopo la pandemia non si trovano molte componenti di elettronica, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che insomma arrivi un po' di roba. Vai Gavino. Questi qua sono i finali dell'ICOP, quindi da chi l'ha riparato non è un lato ieri, quindi non si trovano più i finali su originali. Mi ha garantito il funzionamento al 100% uguale, quindi tutto scritto nero su bianco, quindi accettiamo così. Ho visto che va bene, logicamente non è forte come questo che troviamo adesso, però ha una radio molto più chiara, molto più, diciamo, lineare. Riprendi Roberto. Sì, sì, sì, no, no, va benissimo, te l'ho detto anche prima, molto, diciamo, una telefonata, soprattutto l'FM era la paura, bellissima, proprio hi-fi, come si suol dire, bellissima. Tenete presente, molte volte i finali che montano in origine hanno delle particolarità, normalmente sono progettati per quella radio, e molte volte però capita che sono degli adattamenti, per un circuito mettono quei finali lì, che non è detto che siano migliori di altri che potrebbero andare meglio, come è successo molte volte su delle valvole, poi sostituisci con le valvole, metti male valvole russe o cose e va meglio l'amplificatore. E si presuppone che come utilizzi dei prodotti di altissimo pregio e di altissima qualità, però molte volte può capitare che trovi un equivalente che magari di caratteristiche ancora migliori, meno distorsione, magari un guadagno leggermente superiore, per cui non è detto, però può capitare moltissime volte esattamente il contrario, che magari sono delle cose cineserie cosiddette, apparecchi, cioè dei componenti fatti a lamina futu, con tolleranze esagerate e distorsioni eccetera eccetera, e con dei valori troppo alti, per cui soprattutto in ambito audio te ne ascolti ancora di più, qua magari in radiofrequenza un po' meno. Devate Carlo, avanti. Sì, sì, esatto, la componentistica in effetti è tutto, se si usa roba buona si ottiene un'ottima radio con caratteristiche eccellenti, certo se si usa invece cineseria o iaia, se ne sentono parecchie di radio che non vanno bene proprio perché sono costruite un po' con i piedi, dai, però quelle aziende lì, la Iaesu, la Icom, quelle sono super collaudate, hanno sempre tirato fuori ottime apparecchiature radio, vai Robè. Da, assolutamente, tra l'altro hanno il monopolio loro, non ce ne sono molti di marchi che costruiscono apparati radioamatoriali e loro sono leader, Icom, Iaesu e Kenwood, ma la Kenwood ne fa uno ogni 10 anni di prodotto, però quello che esce, al momento che esce è rivoluzionario, è all'avanguardia per molte cose, quando è iniziato col TS2000, poi ha proseguito con altri, con 990, ha fatto delle radio, 950, 940, quando è uscito erano al momento il top del top, se le facevano parlare naturalmente, la Icom ne esce uno ogni settimana, perché deve farci la guerra con la Iaesu, idem la Iaesu, la Icom ha fatto il 7003 subito, la Iaesu, l'FDX10, poi adesso ha tirato il 710 che gli spezza le gambe a tutti, perché c'ha un prezzo intorno ai 1000 euro, ti dà già una radio di un certo pregio con delle prestazioni molto molto importanti, e nessuno ancora nella concorrenza è riuscito a arrivare per quei prezzi, perché 7003 costa 1400 euro, quell'altro lo vende a 1000 euro con prestazioni superiori. Andiamo a Gavino. Sì, no, guarda, adesso ho passato un po' il Mac Game, non so se mi copiate meglio, scusate, anche poco fa ero un po' fuori frequenza, ero 27.075 e 30, adesso sono allineatissimo e ho passato anche il Mac Game, scusate ma ho un po' di malessere di gola. Io, Robè, sono rimasto molto interessato dal 738, che dicono che è uguale ma è totalmente diverso dal 737, quindi è dal 775, quindi la prossima spesa, diciamo, che farò è sicuramente prendere un 738 o un 775, perché mi sono accorto che dalle, diciamo, facendo una ricerca su internet e leggendo i vari forum e poi conoscendo anche una persona che è in possesso, che è tutto un'altra radio. Vai Carlo. Sì, a me per esempio un periodo mi stava prendendo, diciamo, la girata di testa di prendermi un HF della Iaesu, l'FT891, però visto che costa intorno alle 700-750 euro e poi non so se, diciamo, non posso usare io e sfruttarlo per tutto, e quindi niente, mi sa che ripiego su quella che ho, se non riesco a ripararla, il problema è che non la fanno più, non la stanno più facendo perché manca la componentistica, capito? Quindi per adesso mi devo aggiustare così con quello che ho, poi vediamo in seguito se riesco a o a riparare la mia oppure a riordinarmela una nuova. Quindi tu stai optando per 738 anziché 775, confermi Gabi? Scusa Roberto? Ho detto stai preferendo il 738 al 775? No, assolutamente, ho detto che dovendo vendere, cioè non è che ho detto io adesso ho questo 737, però sto valutando l'acquisto di un 738 o un 775. Mi segui? K, 775, stiamo parlando di una cosa superiore al 738. Positivo, positivo, positivo, è una cosa non superiore ma doppiamente superiore, quindi però diciamo che facciamo i passi lunghi quanto la gamba. Però la prossima acquisto si può testare al 738, 738 che è in conforto a questo che ho io, è già nettamente superiore. Sì, assolutamente, addirittura se prendi quello col DSP, se hanno già il DSP si serve per la riduzione del rumore, del QRM digitale, quella è una radio che ha fatto la storia sicuramente, molti radioamatori lo tengono ancora bello stretto perché è una radio che funziona molto bene, ha delle quotazioni abbastanza alte, ho visto, vedi tu, devi valutare se conviene magari spendere più o meno così, però avere una radio più recente, perché il 775 è una radio che ha fatto la storia, però magari ci sono delle radio più recenti, magari c'è possibilità di trovare una radio un po' più nuova, quella c'è una, penso ci abbia già una ventina d'anni, 775 immagino. Sì, positivo, però è una radio che mi piace anche a vista d'occhio, poi è molto semplice da usare, c'hai i tasti lì e non hai tutte queste cose. Io ho avuto l'esperienza, ho avuto l'FT100D della Yaesu, il veicolare quadrimanda, pagato un po' di soldi perché è una radio che ancora adesso per usato vale 600 euro se è buona, non mi sono trovato molto bene, non mi sono trovato molto bene perché per ovvi motivi. Comunque mi stanno piacendo questo tipo di radio usi. A me 738 piace il modello con dissipatore, il modello con dissipatore dietro, e poi 775 è una radio molto completa, quindi però i passi, facciamo i passi lunghi quanto come la gamba, dai, quanto la gamba, non andiamo fuori di casa per le radio. Sicuramente. Oppure a me i veicolari non piacciono, guarda, è una quantazione, l'ho dedicato per un'antenna direttiva, un VHF, una Linco, quello è nuovo, ancora con il velino sopra, chiamiamolo il cielo, fa sul display proprio nuovo, nuovo, nuovo. Le ho messo una diretta, però non mi piace, io preferisco le radio belle, grandi, col manopolone del VFO, con tutti i tastini belli evidenti, un bello smitter e basta. Per cui se vuoi un consiglio, visto che hai già optato per quelle, prendi una radio di quelle dimensioni, se c'è lo spazio, e non sbagli, sono delle grandi radio e funzionano bene. E poi se vuoi spendere intorno a quella cifra lì, puoi trovare qualche occasione di tipo l'FT1000, l'FT2000, che sono abbastanza similari. Io ho trovato l'FT3000 nuovo di pacca, ancora con cielo fa certe parti, e mai usate, e c'è anche il coso, si chiama la cascata waterfall, c'ha doppio ricevitore eccetera eccetera, ho pagato una cifra simile al valore di quello che può valere il 775. Dico a te Gavino. Sì, ma a me piace molto il 2000, a me piace molto il 2000, quindi però te ripeto, o sono indeciso o se vendere il, ce l'ho messo in vendita ma non sono molto convinto dell'ICDR 7000. Io di questo, qui ho questo 737, l'ho riparato perché è una radio che vale, cioè, che per me vale, però se si può andare a migliorare si va, si va. Però logicamente prima si vende questa, poi si acquista l'altra. Non voglio fare doppio. Mi segui Roberto? Avanti. Sì, assolutamente d'accordo, non te le fai le cose, non che non te lo tieni come riserva, ma visto che non sei io, nel senso, come non sono io uno di quello che deve fare per uso per lavoro, usa soltanto per diletto e per divertimento, e basta una e ne avanza. Facciamo riprendere a Carlo, che se no si annoia. Avanti Carlo. Sì, vi stavo ascoltando, no, non mi annoio, è che anch'io ero col cellulare guardando un po' di radio, cosa c'è, cosa non c'è, perché io sono così un po' sul prendermi un ricevitore, capito, e però ne volevo uno insomma discreto, però visto che c'è la OR, quello grande che praticamente è a OR, è bianco e costa intorno ai 1200, una cosa del genere. Guarda, scusa se interrompo, io di OR ne ho due di ricevitori, cioè il 3000 e il 2000. Se lo confronti la R3000 che l'ha 90, 80, tu senti il forum, sembra che ti abbiano inventato l'acqua calda, e poi provi un ricevitore tipo l'ICR7000 che sta parlando Gavino, stiamo parlando una Ferrari con una 500, poi ci sono dei ricevitori, degli apparati professionali parliamo, che li fanno 10-0 all'ICR7000, però lì stiamo parlando di apparecchi dedicati per questi tipi di lavori, però l'ICR7000 è una radio che tu la paghi dai 400 euro in su, puoi trovare anche qualche occasione anche meno, però sempre col punto interrogativo, perché quelle radio vanno provate, a meno che non ce l'hai qua vicino, perché ho visto delle radio degli Aesu 9600, questa l'ha acquistata entusiasta, bellissima, poi l'ho fatto sentire gli CR7000, gli ho detto ma sei un parente, non vedi che questo è sordo, non senti niente con quello, ha preso il 7000 e si è ricreduto. 7000 è una grande radio, non lo paghi tantissimo e c'hai sotto mano che le fa a parità di prezzo a qualunque OR, a qualunque Iaesu, li fa 10-0 a parità di prezzo. Per avere di meglio di quello devi salire molto ma molto di prezzo. Sì, ho capito. Quello che ti dicevo è la OR DV1, è praticamente un ricevitore analogico e digitale, capito? In grado anche di, diciamo, prendere i segnali DMR per esempio, quelle cose là, e poi puoi acquistare anche delle chiavi praticamente che ti danno la possibilità anche di decodificare, ma solo in ingresso se c'hai una radio vicino, anche segnali quelli della motor, boh, non mi ricordo, cose del genere. Mi sembra interessante, però devo vedere un po' le recensioni, vedere se è buono e se veramente poi riceve anche i segnali moderni, quelli digitali, capito? Devo vedere un po' quello, a te il cambio, Robe. Scusa, Gavi, di nuovo per non monopolizzare. Allora, il discorso è questo, dipende da cosa vuoi ricevere. Se vuoi andare su discorsi digitali, devi avere un computer. Ti prendi un'interfaccia con le schede, con le persone, su cose del genere, c'è un po' di tutto, di apparecchi. Se vuoi andare su un analogico, io consiglio l'ICR7000, una radio che per quello che costa fa tantissimo. Se invece vuoi ascoltare certe cose particolari, decodificare dei mollettini meteo, mollettini particolari, qualche conversazione particolare, è inutile che ti prendi un ricevitore che tra 2 anni lo prendi e ce lo butti, è già superato, mentre col software ti puoi aggiornare, ti prendi un programma, cioè sono tanti programmi, io ne ho installati tantissimi sul computer, e fai quello che devi fare, tranquillamente.